rinunciare, nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme. Magari non sarà nemmeno questa sera. E me l'ha detto la signora, là, affacciata al quarto piano, con la sigaretta in bocca, mentre stendeva il suo bucato. Io le ho risposto che vorrei, vorrei, vorrei, vorrei, vorrei, vorrei tornare a quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano, con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, e che mi fai vivere, dimenticare. Tu che mentre cucini ti metti a cantare, e tu chiamala se vuoi la fine, ma come te lo devo dire, questa vita non è vita senza te. Sai che questa sera vado da nostalgia, mi accendo la TV solo per farmi compagnia. Che bella tiritiera, insomma, ti sembra la maniera che vai mi lasci qua. Ti cerco ancora in casa quando mi prude la schiena, e metto ancora un piatto in più quando apparecchi a cena. So soltanto che vorrei, vorrei, vorrei, ti vorrei, vorrei quando ci basta ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio per ore, fino ad addormentarci sul divano, con il telecomando in mano. Non so più come fare senza te, e che mi fai vivere, dimenticare. Tu che mentre cucini ti metti a cantare, e tu chiamala se vuoi la fine, ma come te lo devo dire, sta vita non è vita senza. Ma chissà perché magari non sarà, magari è già finito.